140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Terrazza Martini, Milano. Torna al cinema dopo una lunga attesa. In Le leggi del desiderio, Silvio Muccino è un life coach pronto a trasformare le vite. Persino la sua. La scintilla che ha fatto partire veramente il motore di questa macchina è arrivata da Carla Vangelista, la sceneggiatrice del film, l'autrice del film, che in un periodo in cui stavamo girando intorno all'idea di scriverne una romantic comedy, mi ha fatto vedere, un giorno è venuta da me con il computer aperto e mi ha mostrato un video da YouTube di Anthony Robbins, il più grande life coach, il più famoso life coach del mondo, facendomi vedere uno spettacolo in cui lui ballava, cantava, prendeva le persone dal pubblico, le motivava, sembrava uno sciamano danzante, sembrava uno showman un po' profeta, un po' cialtrone anche, era sicuramente una delle figure più carismatiche che io abbia mai visto. È un film che non sarebbe potuto esistere 10 anni fa e che forse non avrebbe senso fra altri 10 anni. È una fotografia perfetta dell'Italia e del momento in cui viviamo. È un momento di crisi questo, in cui le persone hanno bisogno di un coach, di qualcuno che gli dica dove andare, cosa fare. Ed è per questo che Anthony Robbins in questo momento è così fortunato, perché è il figlio fortunato della crisi. Sono quelli che si propongono come coloro che hanno le risposte in mano, il segreto del successo. Chi non lo vorrebbe avere? Trovatevi un modello che ce l'ha fatta e diventate come lui. Dovete mangiare, dormire, respirare, fare sesso come loro. Si chiama modellamento. Un vecchio detto diceva: se vuoi essere potente, fingiti potente. Io dico: se vuoi essere potente, sii potente. Punto. E questo film è anche, non dobbiamo svelare troppo, ma una commedia romantica, per la quale tu ti sei studiato anche dei precedenti illustri, addirittura hai citato anche Re di Presentoselli. Perché una commedia romantica? Beh, perché innanzitutto amo profondamente. Io amo quel tipo di commedia romantica, che è una commedia romantica da un sapore sofisticato, divertente, ma coraggiosa nel sentimento. E io avevo voglia in questo momento storico di fare un film che scaldasse gli animi, di fare un film che ti facesse uscire dal cinema con ottimismo, con speranza, ma soprattutto con quel calore che ti lasciano quei film che vogliono scaldarti il cuore, oltre che farti ridere e divertirti. Scaldare il cuore, ma non solo, perché in epoca di 50 sfumature di grigio c'è una delle tue protagoniste che ha questa doppia vita di scrittrice di romanzi erotici, e quindi si gioca molto anche sul sesso in questo film, anche se appunto un sesso solo sublimato attraverso la parola. E poi va di moda, però esci nel momento giusto, dai. Esce al momento giusto. Devo dire che quando ho visto la prima volta che io vidi l'intervista alla scrittrice di 50 sfumature di grigio, io mi sono messo a ridere, devo essere sincero, mi ha molto colpito, sembrava la mia dirimpettaia. Per cui da lei, devo dire, è nata l'idea di scrivere un personaggio come Luciana, magistralmente interpretato da Carla Signoris, che appunto veste i panni di questa segretaria di un vescovo, scrive romanzi anche più hard delle 50 sfumature di grigio. Ci hai portato qualcosa? Ma qui, dai, non mi sembra il caso. Ma sì. Aspetta. Sì? Sono solo poche pagine. Dai. Ho avuto un sacco da fare in questi giorni. Eravamo arrivati alla campagna. Alain le afferrò le mani e la strinse a sé. Jessica sentì il suo odore d'uomo avvolgerla e capì che il suo destino era legato a quello di Alain, che adesso, con mani febbrili... Non esperte. Dopo, adesso sono febbrili. C'è sempre tanta curiosità attorno a te come uomo. Non ti viene l'ansia che ci sia attesa non solo per il film, ma anche per Silvio? È una cosa che fa parte proprio del gioco. Quando non lavoro, tendo a nascondermi. Tendo a non esserci, perché poi quando ci sono. Da una parte è giusto che io ci sia e c'è un desiderio mio di esserci. So che è una responsabilità e un rischio enorme ogni volta. So che non ci sono altre persone in prima linea. So che la prima pallottola che vola è per me e in questo senso anche però forse il primo applauso. Fa parte del gioco e sicuramente non ho scelto di vivere questo lavoro in maniera pavida. C'è un rischio che si corre ogni volta, ma credo che sia l'unico modo in cui so fare questo lavoro. C'è anche un rischio nell'attesa, perché il tuo pubblico, tra virgolette, ti chiedi se ti ha aspettato, se tu pensi che ci sia un tuo pubblico. Allora, io innanzitutto penso che non esiste un pubblico, a parte ovviamente i fan che per fortuna esistono, però io non credo che in Italia, ma ormai è difficile anche nel mondo, esista uno star system capace di muovere le persone. Io credo, e ho sempre creduto, e forse altrimenti non avrei fatto le scelte che ho fatto, molto impopolari, di fermarmi 3, 4, 5 anni a volte, credo che siano i film che muovono le persone. Ti sei fregiato della spilletta di ultimo romantico, visto che ti hanno dato questa definizione. Sì. Ma lo sai che gli uomini che si definiscono ultimo romantico sono sempre delle sole, quindi bisogna stare molto attenti. Sono i più stronzi di tutti? Eh sì. È vero, confermo, orrendamente smascherato. Ok, quindi ultimo romantico / ultimo stronzo. Benissimo, e con questo Radio 24 io vi saluto e alla prossima! Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Silvio Muccino. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.